Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Avete mai pensato come sarebbe insipida la nostra vita senza l'olfatto? Senza questo senso che noi abitualmente bistrattiamo e di cui spesso ci dimentichiamo, la nostra vita non solo avrebbe poco gusto, si mangia prima con il naso che con la bocca, ma i nostri ricordi, le nostre emozioni sarebbero decisamente più poveri e sbiaditi. Provate a pensarci, perché oggi il nostro viaggio parte proprio dal naso, che è direttamente coinvolto nelle nostre scelte, anche nelle nostre scelte relazionali, affettive e sessuali. Nasce l'alba su di me, mi lascio andare al tuo respiro e mi accompagno con i ritmi tuoi. Ti sento in giro, ma dove sei? Con tutte quelle essenze che ti dai. Non so chi sei, non su di me, sei sempre più lontano. Voglio il tuo profumo. Anch'io oggi voglio il vostro profumo, o meglio, voglio sapere quanto contano i profumi e gli odori nella nostra vita. Il naso è un buon consigliere, la salunga. E in linea con noi abbiamo il professor Massimiliano Oliveri, che è professore di neuroscienze all'Università di Palermo. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno a voi, grazie. Tra l'altro lei vive a Palermo e comunque vive in un'isola, la Sicilia, che è ricchissima di profumi, un'isola profumata. Sì, in effetti l'odore gioca un ruolo fondamentale nell'interazione sociale, negli spazi aperti e nelle isole in modo particolare. E il senso dell'olfatto, ancorché trascurato, come sottolineava lei introduzione, ha effettivamente un canale in più, un accesso privilegiato a quelle regioni del nostro cervello che controllano le emozioni, la memoria, anche il comportamento sessuale. Ecco perché gli odori aiutano a identificare amici, nemici, partner sessuali e hanno poi quella capacità peculiare di evocare memorie, spesso vaghe, di un passato lontano, fenomeno ben descritto da scrittori come Proust o Baudelaire, per esempio. Il naso infatti cattura odori, ma non solo, riesce a vedere e a sentire ciò che gli altri sensi non sanno, è dotato di una marcia o di un canale in più, come lei sottolineava. Sì, effettivamente l'olfatto, in modo particolare il cosiddetto sistema olfattivo accessorio, è capace anche di catturare odori molto particolari, come i feromoni, che trasmettono segnali invisibili a un altro individuo e sono in grado di regolarne le scelte, le interazioni sociali, i comportamenti sessuali, le reazioni psicologiche a una determinata situazione. Sono in grado addirittura di stimolare cambiamenti a lungo termine di sistemi neuroendocrini come il ciclo mestruale. Si tratta di sostanze ben studiate negli animali, un po' trascurate dalla ricerca sull'uomo, anche se più o meno recentemente si sono accumulati molti esempi dell'azione di feromoni nell'uomo. Non so, pensiamo alla sincronizzazione del ciclo mestruale di donne che trascorrono molto tempo insieme, per esempio sul luogo di lavoro, o al fatto che donne che passano qualche tempo in presenza di maschi, di individui di sesso maschile, tendono ad avere dei cicli mestruali più brevi rispetto a quelle che raramente ne vedono, sarebbe il caso di dire ne annusano, o ancora evidenze ancora più recenti che sottolineano come se facciamo annusare, tra virgolette, delle lacrime, sì, di donne che hanno esperito emozioni negative a un gruppo di soggetti maschi, questi soggetti poi, di fronte alle foto di quelle donne di cui avevano annusato le lacrime, avranno una riduzione dei livelli di testosterone e una riduzione anche dell'attrattiva sessuale verso quelle stesse immagini. Insomma, i feromoni contano anche nel sesso, nell'uomo, e regolano i suoi comportamenti. Professore, ma il cervello degli uomini e delle donne è diverso e quindi, sì, e quindi ci sono delle risposte differenti? Sicuramente esiste un dimorfismo sessuale, diciamo, nel cervello e nelle strutture del cervello preposte a catturare gli odori e tra questi anche i feromoni. Diciamo che gli individui di sesso femminile sono superiori ai maschi nel rilevare gli odori, anche nel rilevare i feromoni, ma soprattutto io direi che nel sesso femminile i feromoni sono capaci di regolare dei cicli neuroendocrini complessi, come il ciclo mestruale, come si diceva prima, mentre nel maschio hanno un'azione un po' limitata, un po' più terra terra, se mi fate passare il termine, certo. Nel senso che si limitano a regolare comportamenti di approccio o di evitamento sessuale. Professore, in un mondo pieno di profumi artificiali, in cui gli odori vengono spesso mascherati o camuffati da fragranze artificiali, il naso ha più difficoltà a riconoscere gli odori, no? Gli odori freschi, buoni, quelli naturali. È un po' addormentato come senso, ma noi in questa puntata vogliamo risvegliarlo. E ci sono quindi degli effetti anche sulla percezione dei feromoni, oppure questo sistema accessorio funziona indipendentemente dall'ambiente in cui viviamo, non riceve degli stimoli negativi? Diciamo che cerca di funzionare indipendentemente, però certamente l'uso di profumi, creme, cosmetici, ma anche la moda di peeling, scrub, depilazioni, chi più ne ha più ne metta, certamente tende a ostacolare, a eliminare le principali fonti di feromoni, legando le sebacee dei peli, per cui diciamo che questo sistema fa un po' più fatica. Prof, le è mai capitato di affidarsi al giudizio del suo naso riguardo una persona conosciuta da poco? Si fa guidare dal naso? Sì, diciamo che tento spesso di farmi guidare dal naso, riducendo interferenze esterne da altri sensi, affidandomi a giudizi immediati di pancia, di pelle, come si suol dire, o sarebbe meglio il caso di dire oggi di feromoni. Quanto contano, la giro anche a lei, la domanda che ho fatto ai miei ascoltatori in apertura, quanto contano i profumi e gli odori nella sua vita e se ha un odore o un profumo che le attiva particolari emozioni? Direi l'odore del mare, sì. Attiva particolari emozioni e ricordi e soprattutto sensazioni di spazi aperti, quindi dilatazione spaziale e temporale. Quello è il mio odore preferito che conta molto nella mia vita. Grazie al professor Massimiliano Oliveri per essere stato con noi, professore di neuroscienza all'Università di Palermo. Buonissima giornata, buon naso, prof. Grazie a voi, arrivederci. Vi sono profumi, freschi come carni di bambini, dolci come oboi, verdi come prati, e altri corrotti, ricchi e trionfanti, che hanno l'espansione delle cose infinite, come l'ambra, il muschio, il benzoino e l'incenso, che cantano i trasporti dello spirito e dei sensi. Charles Baudelaire. Sono versi profumati, eh? Baudelaire è un poeta da leggere e da rileggere, capace, almeno a me, provoca sempre delle emozioni profonde. Noi oggi riscopriamo le emozioni che possono regalarci proprio i profumi e gli odori, anche i profumi e gli odori delle persone che abbiamo vicino a noi, molto vicino a noi. E in linea con noi abbiamo la professoressa Alessandra Graziottin, direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica all'ospedale San Raffaele Resnati di Milano. Buongiorno professoressa, bentornata. Buongiorno a tutti, grazie. Professoressa, lei oggi ci aiuterà a scoprire anche un lato inedito della vita di coppia. Direi però, allargherei delle relazioni in generale, perché le emozioni che due persone, possiamo anche pensare la mamma con il bambino, due partner, due amici, si provano, ecco, sono molto legate anche a quello che la pelle invia. Intanto noi diciamo quella persona mi piace a pelle, ma c'è molto dietro a questa frase. Assolutamente sì, ognuno di noi ha una carta d'identità olfattiva. In altre parole, ogni persona è circondata da una specie di nuvola invisibile agli occhi, ma essenziale e percettibilissima all'olfatto, caratterizzata appunto dalle secrezioni di questi feromoni che, attenzione, non sono solo sessuali. I feromoni sono sostanze che mediano tutti i comportamenti socialmente rilevanti per la sopravvivenza. Faccio un esempio. Sì. Se siamo in uno stadio e qualcuno comincia a correre in panico, emette immediatamente i feromoni di allarme, dell'allarme di sopravvivenza e di rischio di morte. Ecco che tutti cominciano a correre come pazzi senza sapere nemmeno dove, e questo determina poi quelle tragedie che tutti sappiamo. Perché? Perché il feromone va ad attivare comportamenti primari che bypassano addirittura la coscienza, la consapevolezza. Quindi feromoni di paura, feromoni di affiliazione, si tende ad aggregarsi, a riconoscerti attraverso queste nuvole di profumo, naturalmente, ripeto, invisibile. Per esempio, è fondamentale la secrezione di feromoni tra mamma e bambino. Quando il bambino viene allattato, la mamma ha una particolare secrezione e questo fa sì che la mamma venga riconosciuta prima di tutto dall'odore, poi dalla voce, dallo sguardo, dal sorriso. Nei primi 3 mesi il riconoscimento è sostanzialmente e quasi esclusivamente olfattivo. Tra amanti, tra innamorati, quando si dice mi piace da morire, lo mangerei di baci, sì, c'è un'altra cosa molto importante, perché i feromoni vengono captati non solo dall'olfatto ma anche dal gusto, perché olfatto e gusto sono due sensi chimici, ossia rispondono a segnali, a molecole chimiche, per l'appunto i feromoni. Allora capiamo una cosa importante: quando ci piace l'odore di una persona, quasi sempre, se l'igiene è appropriata, ci piace anche il gusto dei baci, il gusto della pelle, e viceversa. Io ho subito una domanda per i nostri ascoltatori: quando non ci attrae più il profumo, l'odore della pelle, e non ci piace più il gusto dei baci, la prognosi sulla coppia comincia a essere molto riservata. La mia domanda: amate ancora moltissimo l'odore e il gusto dei baci, della pelle del vostro partner, della vostra parte? Sì, no? E come vanno i vostri litigi? Questa è un'altra delle belle domande a cui rispondere. Professoressa Graziottin, nel corso della vita il nostro odore si modifica. Il profumo della pelle di un bambino è molto diverso, ad esempio, da quello di un adolescente, cosa di cui si accorgono presto i genitori. Anzi, a proposito di segnali, questo è proprio un messaggio olfattivo che fa capire ai genitori che il figlio non è più un bambino. Ma i genitori dormono, perché poi continuano a pensare che sia un bimbo o una bimba e non danno ai figli le informazioni giuste per amare sì, innamorarsi sì, ma anche autoproteggersi. Ricordo ai genitori che il 56% dei loro figli avrà il primo rapporto d'estate e che è bene parlare chiaramente di autoprotezione con profilattico a maschio e femmine, meglio se il padre parla al figlio maschio e la mamma alla figlia femmina, e poi un bel contraccettivo ormonale, che sia la pillola, l'anello vaginale o il cerotto, per proteggerle dai concepimenti indesiderati, ma soprattutto profilattico, perché grazie all'amore appassionante, ma in autunno noi ginecologi abbiamo il 30% di visite in più per malattie infettive contratte durante l'estate. Chiudo la parentesi, ma non potevo resistere a... No, assolutamente, perché di questo parleremo anche oggi nel corso della nostra trasmissione. È importante, insomma, oltre che andare a naso, usare la testa. Molto, moltissimo, moltissimo. C'è da dire un sacco di cose sul naso. Pensi, per esempio, che se un uomo è attento, altra domanda agli ascoltatori: voi sapete riconoscere quando vostra moglie o la vostra compagna, la vostra fidanzata è a metà ciclo, perché l'odore delle sue secrezioni è molto più attraente, o secondo voi l'odore è sempre lo stesso durante tutti i 28 giorni? Anche questo è molto importante, perché più l'uomo è sensibile, fine, nel riconoscere le variazioni del profumo della donna, più l'intimità può essere esaltante. E viceversa, quanto la donna ama l'odore e il gusto dei baci. Quando una coppia non si bacia più profondamente, appassionatamente, di nuovo siamo in quella fase di plateau che spesso poi va a finire nella stanca e poi nella perdita di attrazione. Quindi è molto molto importante coltivare questo gusto della seduzione di naso e di gusto, che porta poi a un'intimità, dei preliminari, ma anche proprio a un modo di stare insieme che rende profondamente felice il nostro corpo. Quando il corpo è felice, tutte le emozioni si sintonizzano sul positivo, diventiamo più tolleranti, più capaci di comprendere, più pazienti, ma anche più energetici, perché salgono da un lato i neurotrasmettitori che ti danno energia vitale, la dopamina, la serotonina, le endorfine, che sono le molecole della gioia, e si riducono invece i neuromoni e le molecole di allarme. Quindi far l'amore non è un luogo comune, è profondamente un grande sintonizzatore della gioia di vivere, ma anche della capacità di vivere con quell'equilibrio, con quella calma energetica che ci porta poi ad essere anche attivi nel mondo, nella società, nella famiglia, ma con quell'equilibrio, con quella soddisfazione di corpo, che quando invece sono assenti ci portano poi invece ad esprimere il peggio del nostro carattere, sia in famiglia che fuori. Antonella ci chiama da Roma. Buongiorno Antonella, benvenuta. Buongiorno, grazie. No, io volevo raccontare di una esperienza di parecchi anni fa, in cui appunto avevo un corteggiatore, diciamo, che era una persona che mi interessava moltissimo intellettualmente, voglio dire anche da un punto di vista, diciamo, di aspetto fisico, eccetera. e che però aveva un odore che a me risultava completamente repellente. Ma la cosa buffa è che io sono ancora amica con questa persona e nel corso degli anni ho chiesto a diverse amiche se loro sentivano questo odore e loro non lo sentivano. Guardi Antonella, che la sua è un'esperienza molto interessante. Io nella preparazione di questa scaletta ne parlavo un po' con la professoressa Graziottin per raccogliere qualche informazione, e il naso, professoressa Graziottin, non sbaglia. Cioè, una persona, il profumo della pelle di un uomo ad una donna può, come ad Antonella, risultare sgradevolissimo, e altre neanche se ne accorgono o in qualche caso lo apprezzano. Assolutamente. Vuol dire qualche cosa, insomma. Adesso noi non è che vogliamo dire alle ascoltatrici: se il vostro partner non ha più il profumo che vi piace, buttatelo via. Però ecco, perché questo ancora. Non ancora, però ecco, non è che si fa come una cosa scaduta. Ma compatibilità, dobbiamo dire che perché è così importante anche nella nostra specie, oltre che negli animali, perché questa mappa, questa nuvola, questa carta d'identità olfattiva è modulata e possiamo dire determinata dal nostro sistema di immunocompatibilità. Cosa vuol dire? Che quando noi sentiamo una grande attrazione per l'odore di un altro uomo, parliamo da donne, o viceversa per una donna, questo significa che questa coppia ha la massima probabilità di successo riproduttivo. Cosa vuol dire? Di avere bimbi molto vitali. Questo non ha niente a che vedere col fatto di essere degli ottimi genitori, padre e madre, ma significa che dal punto di vista dell'immunocompatibilità e quindi della compatibilità genetica e quindi della capacità non solo di sopravvivere ma di essere dei bambini molto vitali, bene, questa capacità è predetta dalle affinità, dalla compatibilità, dall'attrazione dei due sistemi di immunocompatibilità, istocompatibilità. Quindi c'è un significato profondissimo in questo piacerci, tanto vero che poi vediamo anche delle cose che possono anche non far piacere poi nei fatti. Per esempio, a seconda delle nazioni, dal 6 al 10% dei bambini non è figlio del padre anagrafico. Cosa vuol dire? Che la mamma ha trovato di quelle attrazioni fatali di odore per un'altra persona, e spesso resta incinta molto rapidamente, perché oltretutto, anche questo è interessante, quando piace molto l'odore di un uomo c'è uno spostamento dell'ovulazione che può per esempio anticipare, e quindi c'è una fecondazione anche con un rapporto che invece di essere, per dire, in dodicesima, in decima giornata, in settima giornata, ma c'era una tale attrazione che ha fatto spostare l'ovulazione ed ecco il concepimento. Quando noi, per esempio, i vecchi medici, quando una ragazza aveva mestruazioni molto irregolari o blocchi delle mestruazioni, che cosa dicevano? Sposati che tutto si mette a posto. Sì. Che cosa intendevano dire? Che il vivere, lo sposarsi, no? Con un uomo, e quindi il dormire vicino all'odore di un maschio testosteronico, si spera, aveva la capacità di riattivare il ciclo ovulatorio stimolando attraverso la via olfattiva l'ipotalamo. Quindi c'è una profonda verità, un profondo significato dal punto di vista procreativo, riproduttivo. Ovviamente poi noi non scegliamo i partner solo per fare bambini, anzi la natalità italiana è quello che è, ma il meccanismo biologico potentemente è determinato dall'affinità degli odori e del profumo dell'altro. Ci chiama Pino da Roma. Pino, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Il suo nome è già profumato, a proposito. Ecco, volevo dire questo, se era possibile, allargando certo il discorso. Mi succede, avendo un olfatto molto molto acuto, che non solo con gli uomini, con le donne, ma soprattutto con le cose, con gli ambienti, ho una evocazione a momenti passati, lontani, oppure avvicinare ricordi, proprio frutto di questa di questo sentire degli odori, che non dico buoni o cattivi odori, attenzione, dico odori che sono evocazioni di antiche emozioni. Essere e benessere. Chi abbiamo vicino? Avverto una sensazione di acqua e sapone sul fronte sinistro. C'è una donna. Donna? Quella donna è fatta per te, io lo sento. È maledettamente bella. Non è così, io non mi sbaglio, evviva! Le dispiace allora se aspettiamo insieme a lei? No, certo, si accomodi. Grazie. Sai, io avverto una fragranza nell'aria. Non mi dica che cos'è. Sapone o ghilvesista? È impressionante. Beh, impressionare è il mio mestiere. Profumo di donna con Al Pacino. Professoressa Graziottin, che profumo avrà Al Pacino? Secondo me un po' di muschio. Poi anche sandalo magari. Anche però sandalo. Posso parlare un secondo, se posso, su quanto aveva detto il signor Pino? Perché ha detto una cosa molto importante riguardo al profumo anche degli oggetti o delle cose. Il discorso è che il profumo, gli odori, ci consentono di ricordare per memorie complesse, cioè quello che si è compreso è che l'odore è talmente importante nell'organizzazione dei ricordi che consente attraverso lo stimolo odore di richiamare alla memoria ricordi associati con gli altri sensi. Quindi attraverso l'odore è come se ricordassimo anche esperienze visive, olfattive, gustative, proprio attivate da questo trigger olfattivo. Ed è importantissimo per ognuno di noi rieducarsi a riascoltare gli odori, perché per esempio la nostra capacità discriminativa è molto lesa dall'inquinamento, per esempio, che abbiamo in ambiente cittadino. Quindi l'estate, il momento di tornare alla natura, dovremmo trasformarci tutti in bracchi e ricominciare ad allenare la nostra mappa olfattiva. Altra cosa importantissima, le donne con la menopausa hanno una riduzione dei loro feromoni del 38%, che si riduce ulteriormente quanto più si allontana l'età fertile. E molte delle crisi di coppia, questa è una cosa molto importante che vi voglio dire, molte delle crisi di coppia ai 50 anni non sono solo da litigi, da stanchezza, da fattori esterni, ma nascono proprio dalla perdita di questa attrattività potentissima, profonda, quella che io chiamo l'attrazione di pancia, che è quella dovuta all'odore. E moltissime coppie, moltissimi mariti mi confermano che quando rimettiamo a posto gli ormoni, la giusta dose di estrogeni bioidentici, di progesterone naturale e un pizzico di testosterone, loro mi dicono: grazie perché mi ha restituito una donna che amavo, la riconosco ancora, è di nuovo lei, e in particolare l'odore genitale, l'odore dell'intimità, quello che consente di avere poi quella varietà anche di repertorio, di gioco erotico, torna ad essere attraente, perché se no la donna diventa olfattivamente neutra, e quando diventa neutra, ragazzi, l'attrazione non c'è più. E allora ecco che il maschio si volge a donne più giovani, non solo perché hanno la pelle più liscia, ma hanno l'odore di donna fertile, e questo è potentissimamente attraente, tanto vero che abbiamo degli studi che dimostrano che facendo annusare un determinato estrogeno vengono attivati nel maschio il nucleo dorso-mediale e talamico, voglio essere molto precisa, in termini semplici, che attiva l'erezione. Quindi attenzione, l'odore non è solo un bel argomento estivo perché ci piace tanto, ma ha delle valenze profondissime non solo nella scelta del partner, ma nel mantenere il piacere di stare con quel partner anche col passare degli anni. E questo è un aspetto completamente trascurato quando parliamo di menopausa, di invecchiamento e di piacere di riscegliersi in una fase della vita molto delicata. E dato che, come ci diceva la professoressa Graziottin, il nostro senso dell'olfatto rischia di essere un po' addormentato, confuso, io ho chiesto a Silvia Salvarani, che è maestra di yoga, che è in linea con noi, che conosciamo bene. Silvia, ciao. Salve, buongiorno. Di aiutarci un po' a riscoprire, riattivare, recuperare, risvegliare il nostro olfatto, che vediamo può veramente renderci più ricca la vita che viviamo e la vita e tanti aspetti della nostra vita che ricordiamo attraverso lo yoga, perché lo yoga lo può fare. Silvia. Assolutamente sì, naturalmente nello yoga esistono tantissimi esercizi di respirazione che sono chiamati pranayama proprio perché utilizzano il prana, cioè l'energia vitale, e attraverso il respiro, quindi la pratica della respirazione, noi possiamo comunque, oltre che riattivare proprio il sistema respiratorio ovviamente, ma proprio riattivare questa capacità olfattiva di cui stavate parlando, e c'è un esercizio che diciamo può essere eseguito facilmente da tutti, anche chi non ha mai praticato lo yoga, perché è molto semplice, privo di controindicazioni, che si chiama Nadi Shodan, che vuol dire letteralmente pulizia dei nadi, che sono quei canali di energia che attraversano il nostro corpo sottile. E respirando in questo modo noi non solo riattiviamo l'olfatto, ma proprio riattiviamo le aree cerebrali. Noi sappiamo che abbiamo due cervelli, il cervello destro e sinistro, che sono rispettivamente il cervello intuitivo e quello razionale, e facendo questa respirazione attiviamo i due cervelli contemporaneamente e creiamo quella sinergia, appunto, che è importantissima per riattivare tutti i sistemi cerebrali e riequilibrarli. E questa pratica si chiama Nadi Shodan, appunto, e consiste nel respirare in modo alternato attraverso le narici. Si chiude una narice con il dito pollice, la narice destra, si inspira attraverso la narice sinistra e poi si chiude la narice sinistra, si apre la destra e si espira a destra. Quindi praticamente si inspira da una parte e si espira dall'altra, poi si reinspira dalla parte da cui si è espirato e si espira dalla parte opposta. In questo modo andiamo non solo appunto a pulire i canali, ma andiamo proprio a risvegliare tutti i centri sottili dei chakra superiori. Molto semplice, senza controindicazioni. Assolutamente, può essere fatta anche per 10-15 minuti, tra l'altro è una pratica che porta anche a un grande rilassamento, un benessere, chiaramente a una respirazione che tranquillizza, quindi anche per chi è in stato d'ansia, certo, o è nervoso, insomma, per ritrovare l'equilibrio bastano 5 minuti di questa respirazione e uno si sente subito meglio. Grazie a Silvia Salvarani per essere stata con noi, buona giornata. Grazie, arrivederci. Allora, professoressa Graziottini, intanto si prepari perché io voglio dare la parola a Ilaria e a Giovanni, ma molti ascoltatori ci scrivono, sì, ok, ma come si fa a far ritornare i buoni odori fisici? Oppure potete dire però come può un uomo tornare ad essere olfattivamente attraente per sua moglie? Intanto andiamo a sentire Ilaria. Buongiorno a tutti e alla dottoressa Graziottini. Grazie. Io volevo fare una domanda, un po' ho già ascoltato e un po' mi sono illuminata. Allora, io volevo sapere quando è che bisogna ascoltarsi. Appunto, quando non ci sono più attrattive, quando non ci sono baci e non c'è più nulla, e quello che resta è solo un'amicizia. Si rimane insieme, e questa è l'esperienza di molte persone, molte donne che io conosco stanno vivendo la stessa cosa. E mi chiedo, cioè praticamente volevo sapere se cioè quando la vita è regolata più dalla ragione, la vita, sì, se è possibile inventarsi un odore per ricreare la voglia di vivere o la creatività, o se è proprio necessario cambiare, cioè chiudere e riniziare a reinventarsi la vita. Cioè, se... Grazie Ilaria, la sua domanda è chiara e trovare una risposta a questa domanda, professoressa Graziottin, potrebbe essere utile, come sottolineava Ilaria, per molti ascoltatori o molte ascoltatrici. Io ho tanti messaggi che sono arrivati al 349-238-6666 che proprio cercano di ci chiedono di trovare una risposta a questa domanda: si chiude, si cerca altrove o c'è un modo per riattivare? È tutto definitivamente chiuso o ci può essere un'altra chance? Dove la trovo? Essere e benessere. Professoressa Graziottini, eccoci. La domanda è complessa, non si può generalizzare, però c'è un elemento molto importante che trovo in moltissime coppie, diciamo così, in crisi di profumo. E attenzione, quando noi siamo molto stressati, le nostre secrezioni acquisiscono una connotazione avversiva. Cosa voglio dire? Che istintivamente noi tendiamo ad allontanarci dalle persone che hanno un odore stressato, perché lo stress comporta un aumento delle secrezioni di allarme. Sì. E questo è un fattore di allontanamento reciproco, come per esempio quando la mamma torna a casa dopo una giornata infernale e i bambini cominciano a piangere, non c'è verso di chiamarli. Perché questo? E questa, più si arrabbia lei e più i bambini urlano. Perché i bambini sentono l'odore di stress addosso alla pelle della mamma, e questo è un odore che li mette in allarme, li mette in panico. Una delle soluzioni semplici è quella di farsi una doccia, perché perlomeno laviamo via l'odore di allarme, di tensione, di stress di tutta la giornata, e cominciamo ad avere perlomeno un odore più tranquillo. Tornando alla coppia, per esempio, una prova è vedere se d'estate, quando siamo senza stress, in vacanza, si riesce a ritrovare un odore attraente nel partner. se questo succede, questo è un segnale prognostico molto favorevole, perché vuol dire che c'era un allontanamento, sto parlando solo olfattivamente, certo, mediato dall'increzione eccessiva di ormoni e di feromoni di allarme e di veramente paura, addirittura di sopravvivenza, perché quando siamo molto stressati l'odore diventa quello, che tendono istintivamente ad essere antierotici, per una ragione, che se nella nostra specie e anche nelle altre animali si avessero rapporti in situazioni di pericolo, si finirebbe uccisi e morti. Quindi c'è incompatibilità proprio tra la via dello stress e dell'allarme e la via neuroendocrina dell'attrazione sessuale e del rapporto sessuale. Ecco che allora, ecco perché in ambienti molto stressati, in ambienti urbani, la frequenza dei rapporti nella coppia stabile cala molto. Certo. E cosa interessantissima, pensi che aumentano nettamente, abbiamo proprio dei dati molto chiari, i rapporti alla mattina invece che alla sera. Perché? Ma perché, ragazzi, durante la notte il comandante dei tempi di pace, cioè il parasimpatico, riprende il sopravvento perché stiamo riposando, cambiano gli odori e al mattino noi abbiamo un odore più calmo, quindi più attraente, che non quello della sera, che è un odore stressato, carico di lavorato, stress, di allarme, che ci allontana. Quindi attenzione, perché noi segnaliamo la disponibilità sessuale moltissimo attraverso il nostro odore. Uno può dirmi, ma io con mio amante lo faccio di sera, di notte, sto benissimo. Bravo, ma quando tu vai a vedere il tuo amante sei già tutto sintonizzato. Eh certo, lì è lì si gioca facile. Ti sei già lustrato, lavato, sistemato, vale, messo bellino o messa bellina, certo. E l'anticipazione, attenzione, dell'incontro erotico porta a modulare le secrezioni in un'altra maniera. Quindi è potentissima la correlazione tra l'aspettativa, il famoso desiderio, e la sincronizzazione di tutto il nostro sistema neuroendocrino e olfattivo in chiave favorevole o in chiave avversiva. Ecco che allora, se noi rispettassimo di più il codice comunicativo degli odori, ho citato la mamma perché è molto importante, come anche il papà, quando non siamo tesi mettiamo i bambini in allarme e diciamo tutti nervosi in questa famiglia. Certo, perché se l'adulto è pieno di feromoni di allarme, i bambini vanno in risonanza subito, e di converso, quando le mamme sono tranquille, i papà sono tranquilli, i bambini si calmano. Quindi, allora, mi raccomando, professoressa Graziottin, prima di incontrarci, quando arriviamo a casa, tutti la doccia, e soprattutto nei periodi in cui si... Non è banale, perché lei ce l'ha spiegato bene, volevo dare la parola a Giovanni. Sì, buongiorno, volevo fare una domanda. Se è stato studiato, è stato visto, se i feromoni si possono captare ad una distanza e a che distanza? Questo perché? Perché molte volte passeggiando in città ti passano 30.000 persone, tante ragazze, eccetera, eccetera, e tu senti un'attrazione. È soltanto un fatto visivo, è anche un fatto di feromoni, ma questo anche non proprio vicinissimo, anche ad una certa distanza, magari certo, la vedi da, non so, 2 metri, 3 metri, e poi, dici, però, oppure dall'altra parte della strada, ecco, oppure, e poi se è vero la storia di questi profumi che si vendono in giro, di fatti di feromone, non le torna. Giovanni, adesso andiamo a vedere. Giovanni, insomma, passano delle ragazze vicino e una cattura il suo sguardo, il suo interesse, il suo naso. Professoressa Graziottin. Penso che addirittura parliamo di alcuni metri, e sembrerebbe che in realtà mettiamo in una festa, pure adesso camminando con tante persone intorno, la selezione della persona che ci attrae avvenga prima a livello subliminale olfattivo e frazioni di secondo dopo di tipo visivo. Addirittura i maschi attenti notano che l'attrazione, cioè qualcuno ti piace, c'è un'erezione, un inizio di erezione che è partito dall'olfatto e poi parte la vista. Sono frazioni di secondo, ma tanto per dire quanto, lo citavo prima, c'è proprio una dimostrazione che questi feromoni attivano i nuclei ipotalamici del maschio, che attivano poi la risposta sessuale, perché tutta questa faccenda è finalizzata a avere un incontro sessuale, che poi ovviamente non sia opportuno farlo, che sì, siano 250 certo, buone ragioni, a lei magari non interessa un accidente o è diversamente occupata, quindi c'è poi un controllo su questo tipo di impulsi e di attrazioni. Però dal punto di vista della gioia di sentirsi vivi, il sentire che qualcuno ci attrae, che ci piace, che ci fa vibrare, è comunque un nutrimento, una linfa per il gusto di vivere, per lui e per lei. Ripeto, poi sempre certo. governato dall'opportunità e dal rispetto del consenso, perché adesso non è che uno no, sente certo. il feromone e dice wow, allora parto, perché siccome ho il feromone tutti no. contenti, è il destino, no, calma un attimo. Però, ecco, sentiamolo e riconosciamolo, e questo può essere anche un gioco piacevole con se stessi e con il mondo che ci circonda. Così come un accordo musicale, l'accordo di un profumo contiene 4 essenze, o note accuratamente selezionate in base alla loro affinità armonica. Ciascun profumo contiene 3 accordi, la testa, il cuore e la base, e quindi fanno 12 note in totale. L'accordo di testa racchiude la prima impressione, dura pochi minuti, prima di lasciare il posto all'accordo del cuore, il tema dominante del profumo, che dura alcune ore. E infine l'accordo di base, la scia del profumo, che dura alcuni giorni. Ci pensava che questo fosse il modo migliore per presentare la nostra prossima ospite, con cui vogliamo concludere la puntata, tutta dedicata alla potenza, al potere, al valore dell'odore, dei profumi. Abbiamo il piacere di avere in linea con noi Laura Tonatto, naso, creatrice di profumi. Ciao Laura, bentornata. Ciao Nicoletta, grazie per questo invito. Sì. Profumatissimo. Profumatissimo, veramente con la professoressa Graziottina abbiamo fatto un viaggio e vedo che è piaciuto anche molto ai nostri ascoltatori e abbiamo preso consapevolezza di questo senso. E possiamo anche circondarci di profumi. Beh, insomma, circondarsi di profumi è un po' un'arte, gli appassionati e i conoscitori di profumi sono davvero tantissimi e iniziamo tutti a conoscere questa scienza straordinaria che è l'aromacologia. L'aromacologia è una scienza nata negli Stati Uniti che serve proprio a capire quali sono le reazioni fisiche e mentali delle persone quando inalano i profumi, e quindi per avere questa sensazione di benessere, antistress, di energia, ma anche di concentrazione, possiamo applicare appunto i principi dell'aromacologia che ci aiutano, per esempio, quando dobbiamo lavorare, concentrarci su argomenti particolarmente difficili, possiamo abbinare il sandalo al bergamotto. Ed è uno studio straordinario che ha assolutamente un'attendibilità scientifica e che ci può aiutare nella quotidianità. E per far calare lo stress, che abbiamo visto ci porta un sacco di guai, perché ci dà una profumazione che in qualche modo impedisce, no, le nostre relazioni? Beh, ad esempio la lavanda è un ottimo elemento, ma così anche i fiori come la rosa, il gelsomino, e alcuni dei quali portano invece altre materie prime come l'ambra, come la tuberosa, ad avere questo atteggiamento molto più sensuale, che probabilmente ha molto a che fare anche con i feromoni. Allora, io voglio ringraziare le mie due ospiti di oggi, la professoressa Alessandra Graziottin, Laura Tonatto. Grazie per essere stati con noi, per averci accompagnato in questo viaggio. Vi auguro una buonissima giornata. Ringrazio i miei ascoltatori che sono intervenuti, mi hanno scritto, potete continuare a scriverci anche su Facebook. Io vi auguro una buona giornata e mi raccomando, fidatevi del vostro naso. Noi ci sentiamo domani, sempre a Radio 24, sempre dopo il GR delle 11.